Frequenze e azioni in diretta. Frequenze e azioni in diretta. Giusto il tempo di riprendersi dallo shock e Navig dà l'ordine di spegnere immediatamente le telecamere. Si rischia di fare una figuraccia in diretta TV, l'ennesima dopo gli attacchi del Natale Nero che, oltre a colpire determinati obiettivi di prima classe, hanno anche irriso le autorità con la facilità di come sono stati portati a termine e soprattutto la sorpresa. In una delle case dei Refractarios avviene una discussione tra Tarspok e Metatarspok, con quest'ultimi che chiedevano il perché di quell'ordine di spegnere le telecamere. Non è per niente una discussione pacifica ed il cameraman viene spinto da un Tarspok contro la parete della casa, con tutta la telecamera in spalla. L'urto contro il muro, senza che nessuno se ne accorgesse, aziona di nuovo la telecamera, che inizia a riprendere a casaccio ma con l'audio che si sente benissimo. Il dialogo tra gli uomini topo e loro simili dei media viene trasmesso in diretta TV. Allo stesso momento le fiamme causate dall'esplosione e che stanno avanzando spaventosamente verso la NA 013 hanno raggiunto il gruppo di ripetitori delle forze armate, distruggendo qualsiasi comunicazione militare via radio. Navig assiste attonito alle discussioni tra Tarspok e Metatarspok in diretta TV. Il generale Topo inizia ad urlare ed a spaccare tutto quello che gli passa sotto le mani. Fermate quei coglioni immediatamente. La mia radio non so per quale cazzo di motivo non funziona e non riesco a dare una lavata di testa a quei pezzi di merda di giornalisti. E ancora. Gli ho detto 3.000 volte che prima di scrivere o fare riprese con quelle telecamere devono attendere i miei ordini e non fare altre domande. Figli di una cagna in carta pecorita. Non finisce nemmeno di urlare che dalla TV ed in particolare dal dialogo tra uomini topo e giornalisti arriva la notizia sconcertante, la grande verità. La voce di un Tarspok dice chiaramente al cameraman: ci sarà un perché è arrivato quell'ordine, no? Mettete forse in dubbio gli ordini di Navig? Non mettiamo nulla in discussione, volevamo sapere soltanto il perché, aggiunge il cameraman. Ed il Tarspok, con un'aria quasi ironica: vuoi sapere il perché? Non ci sei ancora arrivato? Che razza di media Tarspok sei? Non hai capito ancora che l'esplosione alla centrale era tutta preventivata? Il cameraman, con l'aria stupita: preventivata in che senso? Nel senso che da quando è stata costruita in mezzo alle raffinerie si sapeva che prima o poi sarebbe accaduta la catastrofe, ma si sperava in quell'1% che non accadesse per davvero. Ma soprattutto c'erano gli interessi delle autorità dietro quella centrale e Navig ne è il maggior socio azionario. Hai capito ora? Affirma concludendo il Tarspok e il cameraman, ancora più stupito, fa cenno con la testa di aver capito bene. Ha capito molto bene sicuramente anche Navig, a cui viene una crisi di nerve ancora più forte ascoltando quelle parole. Inveisce contro il mega televisore spaccandolo con una frustata della sua lunga e spessa coda da topo. Se li prendo sotto le mani li strozzo entrambi fino a che non gli escono gli occhi fuori dalle orbite. Avvisate immediatamente di chiudere quella cazzo di telecamera. Ma le brutte sorprese non finiscono qua per il terribile generale Navig, perché a quella sua domanda risponde un Tarspok che è piombato proprio in quell'istante nella sala di controllo e con la voce affannata riferisce: gran generale, il fuoco della centrale ha distrutto tutti i ripetitori, i ponti radio sono saltati e non possiamo appoggiarci su quelle dei telefoni cellulari perché sono morti anche quelli. Navig si lascia andare un lunghissimo porco Dio. Intanto, all'insaputa dei dialoganti, continua la diretta TV con il Tarspok che aggiunge altra verità. A Navig non interessa la salute della popolazione, lui stesso ha sempre detto che quella merda sottomessa può anche morire avvelenata. L'importante è che la centrale crei profitti per lui e per lo Stato capitale. Ed il Papa, con tutto il suo Stato Vaticano, ne trae benefici a sua volta con i falsi miracoli e guaritori di tumori. Oramai Navig è sputtanato e con lui tutte le istituzioni religiose e statali. Raggiungete quelle teste di cazzo, fucilateli su posta e buttate i loro cadaveri tra le fiamme della centrale, subito. Questa è una congiura. Dimmi che non è vero, urla Navig prendendo per il collo uno dei suoi collaboratori. Il suo collaboratore, per far calmare Navig, gli dice: generale, forse abbiamo la fortuna che insieme ai ripetitori sono bruciate buona parte anche di quelli televisivi. In questo modo, non proprio tutta la popolazione avrebbe potuto guardare e soprattutto sentire. Ma non è proprio così. A pochi chilometri di distanza, dall'alto del Vesuvio, il Refractario sta approfittando di un piccolo televisore all'interno del camper rubato ai turisti, hanno visto, sentito tutto ed ora brindano ridendo a crepapelle, solo immaginando la reazione di Navig e tutti i governanti. fucking show you fear. Diretta d'azione di lunedì 10, oggi diretta d'azione in orario speciale, serale con la controformazione, soprattutto la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti e ovviamente la musica. E allora ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@distici.org per la mail, per chi vuole scrivere anche consigli sui libri da leggere. Il prossimo penso quello inizieremo a leggere ai primi di aprile, quindi siamo alle ultime 2-3 settimane di lettura di Tortuga, quindi se qualcuno vuol darci qualche consiglio, il consiglio è ben accetto. La mail potete anche spedire notizie di contrainfo, giornali che volete che vengano distribuiti online attraverso la pagina download del sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggervi la controinformazione aggiornata quotidianamente, ascoltare la radio attraverso i lettori che trovate sulla sidebar o attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta, che annuncia la diretta del giorno stesso, dove potete scaricarvi, come dicevo prima, un po' di materiale come opuscoli, libri e CD e quant'altro trovate nella pagina download, e dove potete anche riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione. Là ci trovate tutti i podcast di quest'ultimo anno e mezzo. E allora, la radio è inutile che vi ricordo, come si dice, ho appena detto che ci sono i lettori sul sito, quindi basta pigiare play lunedì e venerdì dalle 17 alle 19. Oggi sono le 19, a regola prima dovuta finire, invece stiamo iniziando. Iniziamo, e prima di iniziare mandiamo un brano di Nina Hagel, TV Snooze, e poi dopo si torna subito e si va dritto con i pirati di Valerio Evangelisti e Tortuga. Issues commands which your body carries out to the memory centers throughout the brain. First move, the memory bank sends information. He is asleep and the TV is on. He is asleep and the TV is on. TV's on all night long, but he's asleep. He's asleep and the TV is on. He's asleep and the TV is on all night long. On all night long, and he's asleep. Gets information from outer space. They use the TV set to come into this place, to sit right on his face. He gets new specials. He gets new specials. New specials. Marzo, alterazione spazio-temporale, dovevamo finire alle 19, invece abbiamo iniziato alle 19 e torniamo dopo le note della sempre immortale Nina Hagen a parlare di pirati, di fratelli della filibusta, fratelli della costa del XVII secolo. Abbiamo seguito fino ad oggi le avventure di questa agglomerato di pirati e di capitani, soprattutto di pirati, di racconti che hanno assaltato Campece, hanno devastato, saccheggiato una delle capitali della Nuova Espagna, si sono divisi il bottino, però hanno trovato a casa loro, nell'isola della Tortuga, la mano lunga dell'impero del re Sole Luigi XIV, che invece vorrebbe mettere fine alle scorribande. Ci sono una serie di risultati ancora da seguire, per il momento ci avviamo verso Champoton. Dopo una settimana di navigazione dalla ringhiera della coffa di Maestra delle Erdi, giunse il grido che tutti attendevano: terra in vista, è la costa messicana! La segnalazione si propagò da veliero a veliero. De Grammont, che era di fianco a Macari, presso la chiesula del timone, domandò all'ufficiale: «E certo, siamo in Messico?» «Sì», rispose l'altro, che consultava una mappa ingiallita ricca di nomi e di disegni approssimativi. «Dovremmo essere al largo dello Yucatan, di fronte a Mérida. Per raggiungere Campeche dovremmo navigare un giorno ancora.» «Non voglio sbarcare a Campeche», disse De Grammont. «C'è un porticciolo abbordabile più a sud o più a nord?» Macari spiegò la carta che teneva fra le mani. «Qui è segnata come accessibile la cittadina di Champoton, oltre Campeche, un poco a meridione. Per arrivarci però occorreranno 2 giorni, non uno solo.» «Champoton? Mai sentito. A voi vi siete mai stato?» «No, non sapevo neanche che esistesse. Il cartografo colloca l'abitato sull'orlo di paludi. Non segna scoglieri e ostacoli. Brevi lingue di terra, quelle sì, isolette di forma allungata, penso.» «Bene, sbarcheremo là.» De Grammont guardò Rogerio, che si teneva appoggiato all'impavesata in attesa di ordini. «Nostromo, un avviso alle altre navi, che nessuna si avvicini per ora alla costa. Ci si porta al largo per non essere avvistati e si continua a navigare. La nostra meta ora si chiama Champoton.» Rogerio si affrettò a eseguire. Il comando andava propagato a voce, a partire dal Mutin, che veleggiava di conserva l'ammiraglia, e da lì trasmesso al resto della flotta. Il portoghese si sgolò, il capitano Adrias Zun, con un ampio gesto del braccio, comunicò di aver capito e fece interpellare le Sage e Grognier sui vascelli più vicini al suo. In breve, ogni nave tirò a nord-ovest e il Messico scomparve alla vista. Solo una nebbiolina distante indicava la presenza delle sue spugne. Una piccola precisazione che non fa parte del libro: evidentemente il salto temporale di stasera ha preso anche la sintesi iniziale. I pirati devono ancora arrivare a Campeche, ancora saccheggiarla, e i francesi hanno provato a fermarli prima dell'assalto. Perdonate la disattenzione. Rogerio aveva appena ordinato di bracciare di punta quando si trovò davanti il viso, ormai divenuto odioso, di Michel Truon. L'ex Nostromo, nominato ormai secondo ufficiale per chissà quali meriti, da 7 giorni passeggiava sul ponte delle Ardì apparentemente indaffarato, ma senza fare nulla di concreto. In mezzo a un equipaggio che, allo stremo delle forze, faceva filare il brigantino con continui cambi di orientamento delle vele, si occupava di problemi secondari: l'argano non oliato a sufficienza, strappi da ricucire, la qualità del cibo offerto dal cuoco, mansioni tipiche dei Nostromi e più ancora dei contramastri. Di recente aveva scoperto nidiate di topi che infestavano la cambusa e lo si vedeva salire e scendere dalla tolda con una squadretta di uomini armati di reticelle. Era molto se catturavano 2 topi al giorno che gettavano in mare. Macari aveva cercato, in realtà, di indurre il suo secondo a comportarsi come tale, e poi vi aveva rinunziato. Non gli rivolgeva più la parola, ed era tutto. Rogerio si chiese il perché di quel comportamento. Probabilmente era dettato dal rispetto verso il casato il cui bretone apparteneva. Esistevano dunque privilegi di casta anche tra i pirati. Il sorriso di Truan si attenuò, ma una frangia di denti bianchi restò scoperta. «Mi dispiace dirtelo, Nostromo, ma so per certo che stanotte il cavaliere De Grammont scenderà a intrattenersi con la tua negretta.» Rogerio si irrigidì e si afferrò al sartiame senza badare agli spruzzi che gli inzuppavano il dorso. «Affermate di saperlo per certo, ve l'ha detto lui.» No, ha però ordinato al dottor Ex Kemeling per stanotte una di quelle budella di maiale fatte per contenere le salsicce. Sai che servono anche a trattenere il seme in modo che una donna non sia ingravidata. E perché il capitano ne ha bisogno proprio stasera? Non è mica difficile da capire che cos'è che ha in mente.» «Va bene, vi ringrazio molto dell'informazione, signor secondo ufficiale», disse Rogerio con un mezzo inchino. «Ma c'è di che, gesuita?» rispose l'altro con pari garbo, e il sorrisetto sparì. «Dove sono i miei acchiappatopi? Ah, eccoli! Seduti sulle manovre a fumare la pipa, maledetti poltroni! Sveglia! La pausa è finita, si torna di sotto! Ne abbiamo di ratti da catturare!» Non appena Truman fu scomparso nel ventre del brigantino, Rogerio corse verso la stanza del quadrato in cui risiedeva ex Gemelling. A metà percorso trovò Macari ritto al solito accanto al timoniere, un sostituto di Levert. Quest'ultimo godeva di un turno di riposo. Rogerio investì l'ufficiale. «Avete un secondo incapace e mezzo scemo, però tollerate tutti i suoi comportamenti!» «Non li tollero, li ignoro!» «Andrebbe fustigato per fannullaggine e incapacità palese! Qui non si fustiga nessuno! Non siamo né su una galera del re di Francia né su galeone della marina da guerra!» Rogerio meditò brevemente e tornò all'offensiva. «A che vi serve un aiutante che perde il suo tempo andando a caccia di topi, un disgraziato?» che ha contribuito all'affondamento della sua stessa nave, su cui la disciplina non esisteva e che a stento sa come si chiamano le vele. Macari per tutta risposta alzò le spalle. «Beh, non è un caso se non lo impiego in compiti importanti e se lo lascio cacciare i ratti, preferisco non averlo tra i piedi. Se diventerà veramente fastidioso finirà ai pesci per ora. È innocuo». Rogerio se ne andò scontento, pensò che Truman fosse favorito per il suo cognome. Caro alla monarchia francese e dunque utile ai filibustieri in un periodo in cui i rapporti con il re erano in crisi. Esistevano convenienze anche tra i fuorilegge. Lanciò due ordini ai gabbieri, era il momento di imbrogliare la velatura non indispensabile dato l'impeto del vento, e raggiunse il quadro di poppa. Ex Gemelling fumava la pipa e leggeva un grosso tomo, semisdraiato su un divano che occupava un'intera parete del suo piccolo alloggiamento. Il cubicolo, molto luminoso per la presenza di una finestra ampia da cui si poteva scorgere il timoniere, era diverso da quello occupato dal collega de Lussan sul Neptune. Qui i libri di medicina o di letteratura varia giungevano fino al soffitto su scaffalature che componevano un'intera biblioteca. Null'altro era appeso alle pareti e non c'erano strumenti chirurgici in vista. Forse erano riposti in una valigetta nera posata in un angolo. Invece lo scrittorio, pieno di cassettini storiati a stretto stretto, reggeva sul piano una risma irregolare di fogli già scritti. Gravava nello stanzino l'odore degli inchiostri suddivisi in boccette. Proprio i fogli, all'ingresso di Rogerio, indicò ex Gemelling con il cannello giallo e consunto della pipa fumante. In Europa. Ho già fatto dare alle stampe una mia prima versione della storia della filibusta e la sto aggiornando con la spedizione in corso. Comunque vada, Campece, si tratta di una fase decisiva. Decisiva in che senso? Chiese Rogerio. Ma sedetevi, amico mio. Ex Gemelling indicò lo sgabello di fronte allo scrittorio. Oh, preferite questo sofà? E fece il gesto di alzarsi. Oh no, state comodo. Cosa intendete per decisiva? Ex Gemelling lanciò uno sbuffo di fumo. È la prima volta che la tortuga contraddiene apertamente agli ordini del governatore e alla volontà del sovrano, nonché della compagnia francese delle Indie Occidentali. De Grammont ha un bel ripetersi che Luigi XIV non può saperne nulla. Il re non conosce i dettagli, però ha emanato ordini chiari. Attualmente non è in guerra con la Spagna. Suppongo che la tregua non reggerà a lungo. Nel mentre ogni atto offensivo contro gli spagnoli sarà considerato puro banditismo e punito come tale. Oh, ma penso che il capitano sia consapevole del rischio. Sì, è questo che mi spaventa un poco. Il cavaliere de Grammont è un morto che cammina. La sua vita è finita quando gli hanno fatto morire la sorella che adorava. Non vorrei che ci stesse conducendo tutti quanti al suicidio. Oh, ma Lorenzio non lo permetterebbe. Lui è la vita in persona. Oh sì, ma succube della morte, di cui l'intera confraternita della costa subisce il fascino. Inalberiamo teschi, ammazziamo a casaccio, li prediamo per poi sprecare tutto quanto in una notte. Campece potrebbe essere l'ultima tappa. Oh, ma la pirateria non finirà tanto presto. Potrebbe però finire la pirateria degli uomini liberi e coraggiosi, la nostra parvenza di controsocietà, di repubblica dei rifiutati dagli stati civili. Nulla scompare per sempre, dopo un naufragio rimangono i frammenti a galleggiare. Ma non parlo di sparizione assoluta, parlo di un fenomeno di ribellione che diventa norma di condotta e di governo. È così che si fiaccano le insorgenze. Il discorso si faceva troppo astruso perché Roger lo potesse seguire, era lì per tutt'altre questioni. Si mosse un poco sullo sgabello scomodissimo e disse preoccupato: «Dottore, mi trovo veramente a disagio sulle Ardi, vengo colmato di riconoscimenti, eppure la nave vede farabutti imbarcati con noncuranza e lasciati agire in piena libertà». Ex Kemeling posò la pipa sul bordo del tavolo già bruciacchiato dai fumi del tabacco. «E per esempio?» «Oh, ma Michel Truan, Henri Duval!» «Ah, ho idea di chi siano», rispose ex Kemeling. «Nullità!» «Effettivamente. De Grammont potrebbe averli imbarcati in vista di un disegno di autodistruzione che non confesserebbe a nessuno, a cominciare da se stesso, un po' come quando si sciolgono i cannoni di un veliero». Rogerio ebbe un soprassalto. Che il chirurgo fosse al corrente della sua missione sul Groaduli si disse che era impossibile. «E come potrei neutralizzare quei figuri?» domandò. «Magari non mi dà retta, invece se magari parlaste voi a lui o al capitano...» Ex Kemeling scosse il capo decisamente. «Non servirebbe a molto, il meglio è aspettare Campece. Stiamo per arrivarci, là si vedrà sul campo chi vale e chi no». Il medico abbassò la voce. «Avete altro da chiedermi?» Rogerio chinò la testa. «Lo sapete». «Ragazzo mio, potete ancora stare tranquillo. De Grammont mostra un qualche interesse verso la prigioniera, visto che le fa servire i cibi migliori e le fornisce coperte pulite ogni giorno. Però non è mai sceso da lei, né lo farà tanto presto. Le crisi di gotta lo stanno debilitando e non servono le fasciature strette, i salassi, gli infusi di colchico. L'aloe bevuta a litri, quell'uomo è divorato da una malattia interiore che non riesco a individuare, provocata da un eccesso di bile nera. Sono sceso a visitarlo, ma in segreto». Ex Kemeling riprese la pipa e ne ravvivò il fuoco con qualche tirata. Mostrava profonda comprensione. «Gesuita, è meglio rimandare l'argomento a dopo Campeggio. Intuisco che sarà là che si decideranno tutti i giochi se saremo vittoriosi. In un bagno di sangue le anime emergono nella loro nuda verità e si mostrano quali sono. Alcune trionfano, altre soccombono». Rogerio sbarrò gli occhi. «Perché parlate di un bagno di sangue? Al governatore della Tortuga il cavaliere De Grammont ha promesso clemenza». «Clemenza!» Non fosse stato per la pipa serrata fra i denti, ex Kemeling avrebbe ridacchiato. «Mon Jeanfil, mio giovane amico, ho visto i fratelli della costa all'opera in molti luoghi, da Maracaibo a Panama, a Veracruz. Chi vuole ricchezza vuole cadaveri e corpi torturati. Dubito che quindi Campece farà eccezione». In quel momento si udì un colpo di cannone sparato da lontano. Rogerio si congedò con un cenno e risalì di corsa sul ponte. Udì il grido ripetuto dalle coffe dei vascelli della flotta: «Ciampotone in vista! C'è un torrione con un pezzo di artiglieria, un polverin! Stanno sparando nella nostra direzione!» che si erano Infex con Display, con il brano Campaign. Ora, dopo la prima lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti, si passa alla controformazione, controformazione che va in Francia, dove c'è stato un arresto e una condanna per un compagno accusato degli attacchi del Gadi, di cui ne abbiamo già parlato qualche diretta fa. L'articolo che sta su Radiazione inizia proprio con due cappelletti, una nota di Radiazione e una nota di Istinto Selvaggio, che è il sito da dove abbiamo preso la notizia. Allora, la nota di Radiazione dice che, dato che per il momento questa è una notizia presa dalla stampa infame borghese, invito a prendere questa notizia con le dovute accortezze. Aspettiamo aggiornamenti da compagni francesi su questo caso. Lo dico perché praticamente c'è stato un arresto e una condanna così all'improvviso, e quindi non si capisce bene se c'è stato un processo per direttissima o un arresto di già da qualche giorno e non se ne era saputo niente. Invece la nota di Instinto Selvaggio, che bene o male è simile, dice: questo articolo è stato preso e tradotto da alcuni media di informazione borghesi francesi ed è attualmente in fase di aggiornamento. Tuttavia, la nostra solidarietà con il compagno Damian è che la lotta anti-autoritaria non riconosce la distanza nel momento di mettere in pratica la solidarietà, e molto meno con le individualità irriducibili in un contesto antagonistico al capitale. Poi c'è il testo che dice: dalla regione francese arriva la seguente notizia. Il compagno anarchico Damian Camelio, di 31 anni, è stato accusato di aver partecipato in due attacchi incendiari a Tarbes e Pau, come membro del gruppo GADI, Group International Direct Action. Damian non nega il suo coinvolgimento in tali attacchi, che sono stati fatti lo scorso dicembre 2013. Il compagno è stato condannato a 2 anni di carcere. Damian Camelio è un anarchico francese accusato di creare e appartenere attualmente il GADI. Non nega la sua partecipazione ai due attacchi incendiari. Non ha rilasciato nessuna informazione rispetto all'organizzazione, la sua struttura e chi vi partecipava. Ha rivendicato invece gli attacchi individualmente, ed in questo modo ha fatto sì che un altro compagno anarchico, che è stato anche accusato degli stessi attacchi, fosse assolto. Leggiamo alcune dichiarazioni del compagno fatte durante il processo, che dice: rivendico la responsabilità per gli attacchi in solidarietà con i compagni prigionieri anarchici e contro le conseguenze delle politiche neoliberiste attuate in Europa. L'ascensore sociale è rotto. Il capitalismo feudale, in cui l'intera vita di un individuo è determinata sin dalla nascita, è questo il vero terrorismo. Quando le famiglie scendono in strada, quando i genitori non possono nutrire i loro figli, quando la dignità umana viene calpestata. Guardate il terrore nei loro occhi prima di giudicare me. Poi un'altra dichiarazione in cui dice: ho attaccato i simboli e violentemente rispondo allo stato attuale della mia prigionia. Io non sono un innocente, letteralmente o figurativamente, o colpevole. Finché non verrà riconosciuta la colpa dei veri oppressori terroristi, io non sarò una vittima, io sono solo un anarchico che entra nella resistenza. In questo momento è l'unica informazione che conosciamo sul compagno Damian Camelio. Si aspettano ulteriori aggiornamenti e traduzioni su questo nuovo caso. La solidarietà non riconosce distanze, e la nostra migliore arma. Damian, ti vogliamo libero e selvaggio. Libertà per tutti i prigionieri anarchici, nichilisti e anti-autoritari del mondo. E poi sotto l'articolo che trovate sul sito di Radiazione c'è anche l'indirizzo per scrivere al compagno Damian Camelio. Non ve lo dico perché sarebbe vergognoso da parte mia leggere il francese. Quindi chi vuole se lo va a leggere dal sito di Radiazione. E questa era, per quanto riguarda, la prima notizia di controinformazione di questa diretta. Ora ci ascoltiamo un brano e lo dedichiamo a Damian, un brano della band di Sebastian, il compagno ammazzato in Cile durante la rapina. Il brano è Rap Insurrecto, e la band di Sebastian è Palabras in Conflitto. Bajo mi pie, esquizofrenia mental, sabemos bien lo que es. La estructura quieren verlo decaer. El asfalto si tengo mi sucia piel. El odio alimentando mi depresión infiel. Me recuerda que no hay ayer. El futuro a la puta. sé lo que es. La revuelta germina, la insurrección nunca termina. No hay salida, destrucción masiva, adivina. Terroristas aumentamos a la vuelta de la esquina. Sigilosos vamos, solo la luna nos ilumina. El camino no se termina, tate vivo, mira y no delira. Puñal en mano, el hipócrita cura, aniquila. En cada cotidiana acción, destruyendo toda la jerarquía. Putas ideologías, que funcionan como policía. Plataforma, no le doy mi tiempo. Sigan en su puesto, con su puesto, con su aliento a muerte. Juntando gente para estúpidos acuerdos. Compañero tuyo, compañeros son mis hermanos. Que al momento de los que hubo en la calle atacamos. Puede pasar lo peor, ya nada me importa. Destruyendo plataformas que te ciegan y te ahorcan. Diálogo no existe, mi mente demente. Mientras exista autoridad, la destrucción será inminente. No autorices el futuro, ataque en el presente. Las fórmulas putrefactas que las quemo en tu cara y te disparo en la frente. Cara yo lo tengo, me la cubre una polera que como pólvora me inspira, alimenta nuestra hoguera. Me duele recordarte tu sonrisa, se dibuja los corazones insurrectos, esperando que tu alma abrace los estruendos. Construidas por el enemigo para encerrar ideas, encerrando compañeros para callar gritos de guerra. Es el centro de tortura y aniquilamiento, donde el ser humano se vuelve más violento. Es el reflejo de la sociedad represiva y carcelaria, sostenida y basada en lógicas autoritarias. Custodiados, reprimidos y vigilados, miles de presas y presos son exterminados ante esta máquina esquizofrénica y despiadada. Compañero Axel Osorio dando la pelea en la cara, rompiendo el aislamiento y el silenciamiento. Fuego, guerra, a la cárcel vamos destruyendo, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio. No vamos lento, ni mucho menos despacio, vamos preciso. Vamos atacando a la autoridad del capital y el Estado, asumidos y declarados en guerra posicionados. Nuestra vida no es solo consigna ni es palabra muerta. Todo aspecto de nuestra vida lo transformamos en revuelta. Y para aquellos que aún siguen pasivos, tengan cuidado, forman parte del enemigo. No somos dueños de ninguna ideología. Nuestra lucha la vivimos día a día en el cotidiano, sin Dios ni ley, ni mucho menos amos. Buscamos destruir todo lo impuesto, toda clase de explotación pues nos apesta. Somos piratas del asfalto, destrozando tu cemento, accionando día a día contra toda ideología. Somos pocos y bien relojos, eso siempre estuvo en mente, reventando a cada defensor de esta sociedad inconsciente. Desde droga nos enseñaron a adorar nuevos farsantes, curas, facunos, milicos, desde siempre enemigo. En esta guerra incesante pienso un rato y me deliro. Descuartizo tu sicario, me libero de los miedos alojados en mi mente, reprimiendo mi inconsciente. Eso que tanto pesaron en momentos impensados, traicionando mis sentidos, un temblor hasta las manos. Oye bien capitalista, no reirás cuando desangre ya tu cuerpo devorado por los cerdos indomables. Luego caguen y sonrían, alimente más la tierra que está ya un poco podrida, pero nunca jamás vencida. Nuestra más fuerte aliada y no recarga autonomía. No existen aún humanos y te destrocen cada día. Aún estás salvaje y viva, recobrando tu energía para acabar con esta farsa, con la sociedad que exista. Que suenen como balas, que no paren jamás. Fuego a la calle y a toda la ciudad. Que suenen como balas, que no paren jamás. Fuego a la cana y a toda autoridad. Pasando desapercibido para todos aquellos los perseguidos, ocultos en la sombra negra de la noche solitaria. Como llena el acecho, propaganda por el hecho, esparciendo la revuelta como peligro latente. Compañero Mauricio Morales, Diego Ríos, nuestros corazones están presentes. El compañero Sebastiano Vesluzzi está presente con nosotros. Marcia di terra, un attacco. Cannoniere ai pezzi, urlò Macari, pronti al fuoco. L'ordine fu ripreso e trasmesso da Ruggero, da Duval e da Truan, riemerso dalle sue cacce ai topi, e riecheggiò anche sulle altre navi. Si udì nel ventre delle ardi il rotolare dei cannoni spinti verso le finestrelle e quello delle pale tolte dalle piccole piramidi erette accanto agli affusti e calate nelle bocche da fuoco. I muzzi scendevano da basso carichi dei barili di polvere da sparo. Si attendeva solo l'ordine di tiro. Sui brigantini e i velieri più grandi, i tamburini picchiavano sui loro strumenti, traendone un ritmo funebre e marziale. Dal Polverin, una costruzione tozza, Eretta all'estremità di un canale circondata da capanne, partì un secondo colpo e si perse in mare, come il primo. Ma quasi sfiorò una goletta pirata. Solo allora De Grammont apparve da chissà dove, appoggiato ad un bastone con la gamba destra fasciata e il viso sofferente. Indossava tricorno e mantello. Quanti cannoni hanno? Occhio e croce, uno o due, rispose il primo ufficiale. Forse tre, ma il forte inizio, benché piccolo, è solido e ben fatto. Mura spesse, garitte per le sentinelle, ottime merlature. Dei folli sono a sfidarci. Beh, forse non si aspettavano che arrivassimo così numerosi. Dei folli, ripeto, o degli eroi. Hanno avuto l'ordine di sorvegliare il mare e cercano di farlo. De Grammont però scosse il capo. Vorrei rendere omaggio al loro ardimento, ma ne manca però il tempo. Dobbiamo sbarcare là. Champoton, ordinate il fuoco, liquidateli. Fuoco! Ordinò Macari. Non ci fu nemmeno bisogno che i nostromi e i secondi ufficiali ripetessero il comando sotto coperta. Lo avevano inteso tutti e non aspettavano altro. Prima che il polverin potesse sparare un terzo colpo, e le ardì si infiammò. Imitato dal Neptune e dal resto della flotta, le navi oscillarono al rincuro dei loro pezzi che presto diventarono roventi. Parve che l'intero oceano si incendiasse, coperto da nubi di fumo bianco. Le cannonate erano di per sé assordanti, tanto che gli artiglieri erano soliti, innescato il focone, tapparsi le orecchie. Sparati da una ventina di velieri creavano un inferno di lampi e di tuoni. Ed era ancora giorno, ma il fumo oscurò il sole. Le grida selvagge dei filibustieri, inebriati da quello scenario apocalittico, probabilmente giunsero fino a Campeche. Il polverino resistette, malgrado gli squarci nella muraglia. La mediocre artiglieria disposta sul terrazzo, no. Fu abbandonata e gli spagnoli si diedero alla fuga. Cercarono di scappare anche i pochi abitanti di Champoton. Le palle disperse abbattevano le loro capanne e le loro casette. Un incendio di tutto il villaggio mise fine alla loro resistenza. Cessate il fuoco, disse De Grammont a Macari. Adesso il terreno è quello che piace a me. Ammainate le vele, gettate l'ancora e calate le scialuppe. Volentieri, volentieri, si scende a terra. Rogerio ripeté gli ordini ricevuti dal primo ufficiale e si mise lui stesso al largo. Poco più tardi, mentre cominciava a calare la sera, una sessantina di barche si mosse a forza di remi in direzione della costa, con a bordo oltre 900 pirati con daghe, sciabole e moschetti. Le scialuppe più grandi caricavano i cavalli e l'armamento pesante, incluso un paio di cannoncini mobili e una colubrina. Capitani e bucanieri occupavano le imbarcazioni più leggere e veloci. Giunto alla terraferma, Rogerio notò, alla luce della luna appena sorta e delle fiaccole impugnate dai marinai, uno spettacolo di desolazione. I cannoni della filibusta avevano leso superficialmente il parallelepipedo del polverin, però distrutto tutte le capanne attorno. Alcune baracche, incluse casupole ben costruite che servivano da dimora ai modesti benestanti locali, seguitavano a bruciare tra i tronchi obliqui dei palmizi. Il solo edificio in mattoni, sede di una filiale del governatorato di Merida, avevano il tetto sfondato e il muro sul punto di crollare. Nei sentieri di Champoton vagavano solo pochi schiavi negri stupiditi da ciò che era successo. Intanto il cavaliere De Grammont era in preda ad uno dei suoi attacchi di gotta. Rogerio fu costretto a reggerlo a sinistra, mentre Exclamening faceva lo stesso dall'altro lato. Tuttavia l'ammiraglio della formazione pirata era lucido, come di consueto, e lo dimostrò quando i capitani Vigneron e Godefroy gli si fecero incontro. «Ci si riposa qualche ora, comandante!» Vigneron era un uomo robusto con il fare del soldataccio, l'antitesi stessa di Lorenzillo, difettava in ironia e in modi cortesi. De Grammont si ribellò con violenza, tanto che quasi spedì a gambe all'aria coloro che lo sorreggevano. «Riposarsi? Di che? Siamo appena sbarcati, sai la fatica! Conviene mettere gli uomini in marcia non appena saranno a riva, ci si riposerà quando Campeche sarà in vista. Nel frattempo...» portiamoci avanti più di quanto sia possibile. Ma non abbiamo né guide né mappe, obiettò Godefroy, rude quanto il compagno, però di aspetto meno barbarico. Oh, si rimedia subito! De Grammont indicò un meticcio che sostava con la moglie davanti a una casupola in fiamme. Forse proprio da loro. E per fare questo dovete staccarsi dal braccio di Exkemeling e ciò gli strappò una smorfia di dolore. Ah, portatemi quel mezzo negro! Vigneron lanciò una voce ai suoi uomini e in pochi istanti l'indigeno fu scaraventato con le ginocchia nella sabbia davanti a De Grammont. Ogni tanto l'uomo volgeva lo sguardo alla consorte che piangeva a distanza. Era apparso un bimbino, piccolo bimbino nudo, e lei lo teneva per mano. Tu ci farai da guida fino a Campeche, chiese il cavaliere in francese perché l'altro capisse. Fu costretto a ripetere la domanda in spagnolo. La risposta giunse davvero inaspettata. Oh signori, lasciateci in pace, abbiamo appena perso tutto. Ah, ma sentilo questo impudente, esclamò Vigneron. Diede all'uomo un calcio nel sedere e gli fece sbattere il viso sul terreno. Forse non ha capito in che mani si trova. Pur senza avvicinarsi, la moglie del meticcio singhiozzò più forte. Anche il bambino prese a strillare. Nascondeva il viso nell'avambraccio come se non volesse vedere. Che facciamo da questo miserabile ammiraglio? Chiese Godefroy de Grammont con la voce golosa di chi pregusti prossimi piaceri. Io sarei per il buon metodo della tradizione, farlo pendere da un ramo legato per i genitali. Lasciateci in pace, ripeté il prigioniero. Adesso piangeva a sua volta. Oh, no, non c'è tempo per questi sollazzi. De Grammont si rivolse a Rogerio. Nostromo, andate a prendere la moglie di costui e sgozzatela. Se lui non si decide a farci da guida, tagliate la gola anche a suo figlio. All'inizio della sua avventura Rogerio non si sarebbe creduto capace di eseguire un ordine del genere. Adesso, invece, sguainò la daga e mosse verso la capanna che bruciava. Non pensava nulla, non provava nulla. Aveva un compito e lo avrebbe portato a termine. No, no! Gridò il mulatto disperato. Rogerio continuò a camminare e udì De Grammont che diceva: ti sei deciso, ci porterai a Campeche? Sì! Rispose il prigioniero agitato in un pianto convulso, la fronte nella sabbia e le spalle che sussultavano. Nostromo, tornate indietro! Ordinò il cavaliere. Il nostro amico ci ha ripensato. Godefroy e Vigneron scoppiarono a ridere. Rogerio ritornò sui suoi passi e con una certa lentezza rinfoderò la daga. Giunto all'altezza di Exkemeling, il chirurgo gli disse: l'avreste fatto davvero, gesuita? Il portoghese non rispose, non osava dire la verità. Exkemeling scosse il capo. Che mondo, che tempi, mormorò. Intanto il meticcio era stato adagiato contro le radici sporgenti di una palma. De Grammont, finalmente capace di stare in piedi da solo, malgrado ripetute smorfie di dolore, gli domandò: quanto dista Campeche da qui? 14 miglia, monsieur. Alla luce delle torce si fece avanti il capitano Brigaut, che comandava una goletta a vele squadrate, l'Étoile de Nantes. Malgrado le dimensioni ridotte della sua nave, dotata di solo 8 cannoni, godeva la tortuga di buona fama, grazie alle imprese coraggiose che aveva condotto a buon fine. Sua base di operazioni era normalmente la minuscola Isla della Tortiglia, presso Panama. Capitava la tortuga a Port Royal a vendere schiavi e merci predate, ma sempre di gran valore. Ammiraglio De Grammont, disse Brigaut, 14 miglia sono tante da percorrere di notte, rischiamo delle imboscate. Inoltre ho preso i cannoni del polverino che gli spagnoli non hanno fatto in tempo a inchiodare. Sono pesantissimi ma utili in caso d'assedia. Non è pensabile tornare lungo sentieri bui che nemmeno conosciamo. De Grammont rifletté, poi emise un sospiro. Va bene, ci accampiamo qui per domattina alle prime ore. Voglio la truppa pronta a mettersi in marcia. E niente rum stasera, né altro cibo che non sia quello indispensabile ad un guerriero. Vi fu un generale sospiro di sollievo. La direttiva fu diramata e in meno di un'ora sorsero tende e capanne. Si accesero falò attorno al piccolo fortilizio sul mare e tra le capanne distrutte in mezzo alle palme ridotte in cenere o in qualche caso ancora in fiamme. L'oceano era percorso dalle strie di luce dei 22 vascelli all'ormeggio, ognuno con le proprie lanterne. A terra si respirava l'aria corroborante della selva, inquinata a tratti da nubi vaganti di fumo. Il frenio delle cicale era assordante. De Grammont, molto stanco, attendeva su una poltrona scovata entro gli uffici del governatorato che fosse terminata la costruzione della baracca a lui destinata, con pale di legno come pareti e incerata come tetto. Nel frattempo si era fatto porgere una pipa da Macari e la fumava svogliatamente. Rogerio, il quale non aveva compiti che per mare, si teneva in un angolo in attesa della cena. Pentole fumanti ne annunciavano l'imminenza. Giunse Lorenzio, esagitato come sempre, si esibì in un goffo inchino di fronte a De Grammont e disse: «Ammiraglio, ho fatto cantare un paio di schiavi trovati nei boschi e le notizie non sono tra le migliori». «Oh, spiegatevi, Dohan». «C'è ormeggiata nel porto di Campeche una fregata spagnola possente il Nuestra Señora de la Soledad. A 22 cannoni la comanda un capitano noto in Spagna per il suo coraggio, Cristobal Martínez de Acevedo». «Ebbene?» De Grammont si strinse nel mantello e soffocò uno sbadiglio. «Noi prenderemo Campeche da terra». «La fregata può cannoneggiare la città da ogni lato, muovendosi rapida. Le sue artiglierie possono unirsi a quelle del forte e agli ultimi 40 pezzi posti all'ingresso dell'abitato». De Grammont, dopo lo sbadiglio, aveva chiuso gli occhi, ne riaprì uno a fatico. «E tutto questo ve l'hanno rivelato degli schiavi?» «Eh sì, ammiraglio», rispose Lorenzio e scoppiò a ridere. «Sono convinti che dopo averci fatto la spia saranno liberi, hanno membra solide e ne ricaveremo un buon prezzo». Il cavaliere si stiracchiò sulla poltrona e indicò il meticcio legato ad un tronco. Moglie e figlio lo avevano raggiunto, nessuno di loro piangevano più. Avevano esaurito le lacrime e De Grammont sputacchiò sulla sabbia. «Mordie! E io che perdevo tempo per far parlare quella carogna e voi la Oran trovate informatori a bizzeffe, gesuita!» Rogerio emerse dalla baracca in costruzione. «Ditemi, mi capitan!» «Farete stuprare da una truppa scelta la sposa del mezzo negro, strangolerete voi stesso suo figlio, darete fuoco all'albero a cui è legato il padre, ciò servirà da esempio!» Rogerio rimase scosso, ma chinò il capo. «Agli ordini, capitano!» De Grammont non lo udì. Accoccolato sulla poltrona, la gamba destra fasciata e stesa su uno sgabello procurato da Macari, dormiva ormai il sonno del giusto. Si tu résistes, t'as une piqûre dans le baba, là où les promenades n'existent pas. Voudrais me voir canner, plus jamais on pourra me calmer. Rescapé de l'incendie avec cette sale envie de tout cramer. Car ils ont fait de ma vie des cendres, marqué à tout jamais. Ma rage ne pourra jamais redescendre. L'incendie, il brûle encore dans mes veines. Comme si j'abritais un volcan, ça lave à brûler tous mes rêves. Mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. Je viens de l'incendie, regarde les brûlures de mon âme. Marqué au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, à esquiver leur barrage stressant, la rue. J'y dormais déjà à l'âge de 13 ans, pisté par les flics, jour et nuit la chasse est ouverte. Et quand la loi abuse de son pouvoir, cette pute est couverte. Les étoiles restent les seuls témoins de mes confidences. L'enfant seul que personne ne console quand les conflits dansent. La faim, le froid, la fatigue et les coups, un monde fait de mensonges. J'aide pas à faciliter l'écoute de fossiles. Sans voulu mettre racisme, voler ma liberté. Pour ça, ils m'ont coupé les ailes à la scie. Brûler mes rêves à la scie. on reconnaît les traîtres à l'insigne, sauvés par la zig. Car elle a payé ma rançon, des mots pour penser mes plaies, quand mon avenir était ensemble. Leur schéma, nous sommes qu'illusions, que la foi transcende. Au feu, ils taisent, les cachés sur les enfants de sang. J'ai un incendie, et il brûle encore dans mes veines, comme si j'abritais un volcan. Ça l'a pas brûlé tous mes rêves, mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. J'ai un incendie, regarde les brûlures de mon âme, marquées au fer rouge, comment faire ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Le groupe, jour et nuit, comment soigner les guérissables. L'incendie, après les coups du sort, est devenu machinal. La voix dehors, la loi pour une gosse qu'on a rendue marginale. Je me dévoyais, place de foyer en foyer. Leur putain de machine veut me broyer. Mais vas-y, lâche-moi, j'ai mal. Je rentre pas dans ton moule. Mon besoin de liberté est trop grand. Rester, c'est sauvage. Ah bon, alors j'emmerde ton slogan. Retiens bien tes ordres et ton système. Je m'en tape. Esquiver tes lois est devenu un vulgaire. Je m'en tape. Ma revanche, l'épée, je la brandis avec foi. Trop de carence dans le cœur. Mes plaies ont grandi avec moi. C'est trop tard pour que je guérisse. C'est trop tard au point même de ne plus pouvoir expliquer les douleurs qui me malmènent. Alors je cours. Mais mon passé me rattrape. Je cours malgré les boulets. Et ma mémoire veut ma bâche. Je cours. Sans cesse et sans répit, sachant pertinemment que le poison est dans ma tête et qu'on ne peut se mettre son nom. Personne ne guérit de son enfance. Personne ne guérit de son enfance. J'aime l'incendie et il brûle encore dans mes veines, comme si j'abritais un volcan. Ça l'a pas brûlé tous mes rêves. Mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. J'aime l'incendie, regarde les brûlures de mon âme, marquées au fer rouge, comment faire ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Jerry non dovette fare nulla di ciò che De Grammont aveva ordinato. Fu lo stesso Lorenzio a dissuaderlo. Lo prese ridendo sotto braccio e gli disse, indicando il capitano addormentato: a volte il cavaliere dà ordini terribili tanto per rafforzare la sua fama di spietato. Non gli importa però che siano eseguiti, basta che si sappia in giro che ha disposto questo e quello. Molto perplesso, Rogerio obiettò: eppure il suo comando era inequivocabile. Di portoghese, ti diverti a strozzare i bambini e a bruciare vivi disgraziati? Dopo una pausa di riflessione che preoccupò anzitutto lui stesso, Rogerio rispose: beh, no, in fondo no. Ah, mi spiace questo in fondo, commentò Lorenzio sempre ilare. Sei diventato davvero uno dei nostri. Risparmia i tuoi peggiori istinti per i soldati spagnoli. Vide a breve distanza due dei suoi uomini, Jean-Baptiste Renard e il Negro Bamba, intenti ad accendere un falò. Voi due! Disse Lorenzio, liberate il tizio legato al tronco e lasciatelo andare, lui e la sua famigliola, che il diavolo li mandi a crepare altrove. Appena sciolto dalle corde, il mulatto prigioniero prese moglie e figlio e corse con loro nel buio verso boschi e paludi. Forse temeva che i pirati ci ripensassero, ma intanto De Grammont seguitava a dormire e adesso ronfava. Lo credevo un uomo più temibile, osservò Rogerio, uno che sa farsi obbedire. Lorenzio allora si fece serissimo. Gesuita, lui lo è. Aspetta che sorga il mattino e scoprirai quanto vale quel piccolo uomo scuro, cattivo e mezzo zoppo. Se per la tortuga c'è ancora una speranza, è da lui che dipende. Lasciato solo, Rogerio cercò dove passare la notte. Ex Kemening lo chiamò all'ingresso di una tenda appena eretta, un semplice telo su via, sostenuto da pali disposti a croce. Un lume brillava all'interno. Venite qua, gesuita, l'alloggio lascia sia a desiderare, ma c'è posto per due, e poi dentro vi aspetta una sorpresa. La sorpresa era costituita da una bottiglia di vecchio rum inglese al centro delle coperte, che fungevano sia da giaciglio sia da pavimento. Illuminava l'ambiente una candela ingabbiata. Il chirurgo trasse dal proprio fagotto, posato a fianco della valigetta nera della sua professione, due bicchieri di ferro e li riempì. «Voi mi sconcertate, gesuita», disse, mentre porgeva all'ospite un boccale. «Sembrate ormai disposto a tutto, incluse azioni meno giustificabili». «Obbedisco agli ordini dell'ammiraglio», borbottò Rogerio imbarazzato. «E tra quegli ordini c'è quello di astenersi dal rum, eppure lo state già bevendo». Rogerio guardò il bicchiere, ma non ebbe la forza di deporlo. Un sorso gli ci voleva, se non altro per dormire, per uscire dall'impaccio, deviò in parte l'argomento. Dottore, siete stato già con Lolonnais, con Momba, con Rock, con Morgan, di atrocità ne avete viste e forse anche commesse. Schemelling alzò le spalle. Commesse io, da verità poche, viste molte. Ma non è questo quello che conta, sappiamo già di essere disumani in questo continente. Io però non ho pietà per gli spagnoli, mentre ne ho per le loro vittime. Gli spagnoli hanno versato e continuano a versare sangue innocente da questo lato dell'oceano e infieriscono su di loro. E mi sembra una rappresaglia, oserei dire, voluto dal cielo, ma noi ne abbiamo già parlato. Perdonatemi, dottore, se seguito a pensarla come De Lussan. Mi sembra una giustificazione che non regge, che nasconde una vocazione alla crudeltà. Quali che siano i crimini della Spagna, i fratelli della costa ne commettono di peggiori. Di peggiori? Ma ne siete davvero sicuri? Il tono di Exclemening era acceso, forse a causa dell'alcol, però non scandalizzato. Il medico pareva soprattutto voler ragionare. Voi, non avete mai visto le miniere in cui gli spagnoli costringono a lavorare gli indigeni per estrarre l'oro? Buchi fetidi e allagati di fango dove la vita media è di pochi mesi. Non sapete le sevizie commesse sugli Arawakos? Mutilati per puro divertimento, via un braccio, via il pene, via il seno di una donna, tanto per provare il filo della spada del cavaliere di turno. Rogerio fece un gesto di innego. Ah, era così un secolo fa, adesso le cose sono cambiate. Sono cambiate ben poco. E poi tutta la filibusa, tutto si prefigge, salvo che la liberazione degli indigeni. E inebriato dal rum, era il terzo bicchiere, Rogerio abbandonò la ritrosia abituale. Chi fa guerra di rapina dice sempre di avere qualche oppresso da riscattare. Balle! Mi meravigliate, dottore, credete davvero che si vada a Campeche a liberare gli schiavi ed abolire la tirannia della Spagna? Se faremo prigionieri li scambieremo con denaro se sono bianchi, oppure li venderemo sui mercati dei Caraibi se sono negri. I più forti li ritroveremo sulle galere francesi in sostituzione dei benevoli che non vogliono più stare a Remo. Ah, gesuita, io vi credevo meno cinico, bofonchiò Schemelling, ormai prossimo all'ebbrezza. Datemi il vostro bicchiere, vi verserò la razione che sarebbe spettata a De Lussan, il maestro che vi ha istruito. Rogerio obbedì. Ma non sono cinico, guardo le cose per quel che sono. E non è questo il cinismo? Rispetto a qualche mese fa la vostra visuale è completamente cambiata. Accettate l'inaccettabile con un solo tallone d'Achille. E quale? Chiese il portoghese ormai sulla difensiva, in cuor suo conosceva già la risposta e la temeva. La donna dalla pelle scura imprigionata nelle Ardi. Exclamating vuotò il boccale, lo posò e si adagiò sulla coperta, l'avambraccio sotto la nuca e mise un paio di sbadigli. È davanti a lei che la vostra impassibilità si infrange in una qualche forma di speranza, credetemi, voi credete ancora. E in un mondo di brutti si deve essere tali per sopravvivere, rispose Rogerio, finì a sua volta il rum ed era cupo in viso. Ma la schiava non è una bestia come le altre, no? Vi hanno conquistato all'idea che l'uomo sia servo del male. Vi avete aderito con entusiasmo inconfessato e siete pronti ad ogni crudeltà e ne gioite. Eppure, la donna che vi attrae non rientra negli schemi, non è vero? Per lei fate una singolare eccezione, pura come... Non sembra appartenere al diavolo. Rogerio si sdraiò e mise in sospiro. Appartenga un angelo o un demone non sarà mai mia. È fu il suo turno di sbadigliare. E chi l'ha detto? Studiate le regole dei fratelli della costa. Un modo c'è per entrare in possesso della ragazza. È doloroso, sì, ma è efficace. Anche i capitani devono obbedire al codice degli avventurieri, persino De Grammont. Rogerio si sollevò sul busto. Era notte fonda e fuori frinivano grilli e altri insetti. I falò erano spenti, le case di Ciampodona avevano smesso di bruciare. Spirava una brezza soave che gonfiava gli attendamenti e al tempo stesso li imbrattava di coriandoli di cenere. «Cosa intendete dire, dottore?» chiese il portoghese ritto sugli avambracci. «Di quale norma potrei valermi?» Ex Gemmeling, con i pugni contro la guancia, accartocciato come un neonato, non si scomodò. «Studiate il regolamento e trovate voi stesso la soluzione», bisbigliò mentre sistemava il viso sulla coperta arrotolata che fungeva da cuscino. «Cercate nel frattempo però, mon frère, di dormire. Di primo mattino si andrà alla guerra, dove tutte le donne, inclusa la vostra, sono dimenticate». Rogerio scivolò nel sonno mentre ancora studiava le parole con cui rispondere. Non ne trovava. Cadde di peso nella dimensione dei sogni e degli incubi. La cera della candela continuò a bruciare finché il cielo all'aurora non si rischiarò. Era il 7 luglio 1685. I tamburi battevano, gli ufficiali tempestavano ordini. Alcuni pirati erano a cavallo, altri trascinavano i cannoni. Le prime file erano composte da bucanieri e da arawakos. Dietro, i comandanti e le loro cavalcature sventolavano i gighi di Francia e la bandiera nera con teschio e clessidra dei Fratelli della Costa. La truppa, sovraeccitata e assetata di sangue, carezzava le daghe e le pistole. Rogerio sorseggiò il caffè che Augusto de Bragli gli porgeva e si allineò. De Grammont, in sella, sembrava a proprio agio. Lanciò l'ordine di marcia. La colonna si inoltrò tra i boschi lungo un sentiero appena visibile nell'erba. La guidava uno dei due schiavi negri scovati da Lorenzio, esperto del terreno. Sulla sinistra, visibile fra i tronchi, il mare era calmo. Il primo sole faceva già sudare. Le Bon, l'eterna pipa fra i denti, si accostò al portoghese. Da questi parti piombò una decina di anni fa il capitano Mansworth Port Royal, un avventuriero coraggioso come il suo compare Lewis Scott. Non presero campeggio tutta intera, saccheggiarono i quartieri in difesa e distrussero la fortezza. Lassù ne vedi i segni. Il nostromo del Neptune indicava la collina piuttosto alta che sovrastava gli alberi. La sommità brulla ospitava rovine bruciacchiate. Quello era il fortilizio di Santa Cruz, spiegò Le Bon, in cima al poggio che è chiamato il Cerro della Eminencia, luogo ideale per la difesa. Il guaio degli spagnoli che appena vedono i filibustieri scappano a gambe levate. Speriamo che oggi accada lo stesso, rise Rogerio. La camminata proseguì per alcune ore con un solo incidente. Alcuni fucilati provenienti dalla boscaglia uccisero un tamburino e ferirono un bucaniere. Si rispose al fuoco senza risultato, non fu nemmeno possibile scovare gli aggressori. Tra la loro postazione e la colonna c'era un pantano nascosto dalle foglie cadute da banchi di sabbia mobili. Era già mezzogiorno quando i pirati arrivarono ai piedi del Cerro della Eminencia, da cui era possibile scorgere Campeche. De Gramona alzò il braccio per ordinare una sosta. Non fece tempo a parlare che dal colle provennero spari assordanti e cadde una pioggia di proiettili. Si videro soldati spagnoli uscire a nugoli dalle rovine e calare sull'armata degli invasori. Erano centinaia, urlavano come ossessi e tiravano a casaccio. Rogerio si attese che De Gramona ordinasse la ritirata. No, per niente! L'uomo nero si tenne fermo sul cavallo che, spaventato, tendeva a impennarsi e urlò: «Sangue freddo, fratelli! Quelli sono allo scoperto e noi no! Prendete bene la mira!» I bucanieri furono i primi a interpretare l'ordine. Puntarono con calma i fucili posati sul treppiede. La scarica fece larghi vuoti tra gli assalitori e li scompaginò. Quasi altrettanti morti fecero le frecce avvelenate degli arawakos. Subito dopo, i filibustieri si inerpicarono sulla collina. Secondo il loro costume, lanciavano versi scimmieschi o imitavano i ruggiti delle belve. Le perdite non arrestavano il loro impeto. Scavalcavano i morti, sforzavano la gola in esclamazioni belluine. Bestemmiavano, imprecavano, agitavano spade, scaricavano pistole e moschetti. A ogni nemico che tentava di chiedere compassione, tagliavano la carotide. Le teste recise venivano scagliate come sassi contro gli spagnoli. Ciò si protrasse per mezz'ora circa. Alla fine, l'esercito di Spagna, ripiegato sul Cerro della Eminencia, issò la bandiera bianca, invocava pietà. «Che misericordia sia!» disse l'ammiraglio di Grammont mentre cercava di tenere a bada il cavallo che montava. «Campeche è già in vista lungo il litorale, non si aspetta che le giungeremo addosso con una sfilza di prigionieri!» E i tamburini batterono l'ordine di riprendere il cammino. E questi erano Cubanette con il brano Barbarossa, nemmeno fa la posta si parla di pirati, e quindi era obbligo mettere un brano del genere. Quindi dopo queste due letture consecutive si ripassa alla controinformazione con uno scritto che arriva da qualche parte nel mondo, come io ho titolato sul sito di Radiazione, uno scritto su un attacco che non ha funzionato. Io ho messo anche una prefazione a questo testo, lo leggo. Di seguito viene riportato un testo da parte di alcuni compagni che avevano preparato un ordigno esplosivo che non ha funzionato. Il testo viene riportato comunque perché gli stessi compagni ammettono i loro errori nella costruzione del dispositivo, data dalla poca esperienza che dicono di avere. Non è che sia pratica usuale ammettere l'errore, specialmente da parte di chi arma i suoi desideri, e molto spesso gli errori possono essere fatali. Dico solo tre nomi di compagni a cui sono stati fatali certi errori: Maurizio Morales, Zo e Luigi De Blasi. Maurizio Morales e Panchia Mauri lo conoscete, Zo uguale, forse Luigi De Blasi qualche compagno più giovane non lo ricordo, ma un compagno che morì durante lo scoppio di un'autobomba al Prenestino, fatto che è rientrato anche negli atti dell'inchiesta Marini, iniziata nel 95 e portata a termine nel 2004 con sentenze pure molto pesanti come ergastoli e 30 anni di carcere per i compagni. Allora, leggiamo il testo di questi compagni. Attraverso queste parole avremmo voluto condividere un attacco sicuro al nemico, avremmo voluto inviare un saluto fragoroso ai nostri fratelli sequestrati dallo Stato Capitale. Con quei desideri, infermando il cuore, abbiamo deciso di superare la paura e un piccolo gesto che illuminasse la notte del dominio con un ordigno esplosivo. Abbiamo deciso il tempo e il luogo, abbiamo sviluppato un piano e ci siamo avventurati. La mattina successiva ci siamo messi alla ricerca di qualsiasi notizia che raccontasse del risultato della nostra azione, ma non è stato trovato nulla. Per non avere dubbi, e dato che il nostro obiettivo lo permetteva, siamo tornati sul posto per vedere cosa era successo. L'estintore riempito con un chilo di polvere nera con aggiunta di dadi e bulloni era nello stesso luogo dove l'abbiamo lasciato. Il sistema di accensione, costituito da un tubo di carta riempito con la stessa polvere più le teste di fiammifera, aveva funzionato. Questo si era consumato fino al buco che avevamo fatto al recipiente, cioè l'estintore, nel quale avevamo inserito diversi centimetri di miccia artigianale. Era successo che al contatto della miccia accesa con l'estintore e il suo rivieno, a quanto pare la polvere da sparo si era accesa e riscaldata, provocando l'allargamento del foro alla sua dimensione originale. Infine, l'unica cosa che accadde fu che l'estintore si scaldò e fu coperto da cenere nera, ma non esplose. In un test precedente avevamo provato la stessa cosa, ma con un estintore vecchio e ossidato, che era esploso rispetto a quello molto probabilmente per l'usura del materiale. Rispetto al recipiente che abbiamo riempito questa volta era nuovo e non ci aspettavamo che accadesse la stessa cosa. Avevamo scritto un testo che per ora dovrà aspettare. Abbiamo anche ancora molto da imparare, non nasconderemo il nostro obiettivo di vedere bruciare questo mondo decadente e quindi la nostra frustrazione per non essere in grado di vedere il nostro desiderio materializzato. Ma noi siamo pazienti, stiamo crescendo, imparando, migliorando le nostre tecniche e le infrastrutture. Allo stesso tempo ci trasformiamo, disimpariamo ciò che ci hanno inculcato e stiamo sviluppando nuove relazioni tra noi stessi e ciò che ci circonda. Abbiamo molto da fare e non pensiamo di arrenderci. È in questo sforzo a continuare ad apprendere reciprocamente con l'esperienza di altri compagni complici che scriviamo queste righe cercando la comunicazione con loro che, con coloro che, in base alle esperienze, hanno le risposte che cerchiamo, come dov'è l'errore nel nostro dispositivo, in cosa abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo fare. Crediamo che questo ambiente virtuale per eliminare i nostri dubbi è più adatto e più può essere utile anche ad altri nel loro cammino e aggiungere ricchezza al nostro fare. In attesa di aprire un dialogo fraterno con coloro che lo desiderano, salutiamo con un abbraccio pieno d'amore chiunque rischia ed arma i suoi desideri. Ogni cuore è una bomba artigianale. Morte alla civilizzazione, viva l'anarchia. E questo era il testo che si è preferito pubblicare sul sito di La Lezione, proprio perché comunque secondo me è una buona cosa ogni tanto ammettere i propri errori, in questo caso anche specificare dove hanno sbagliato. Proviamoci ancora, compagni. E questo è il video da parte della reazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono All Gone Dead con il brano Screech and Kill, Skrill, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Thank you. La ciudad de Campeche si rivela un osso durissimo. Postazioni di cannoni a grappoli di quattro sorvegliavano gli accessi principali. Un vecchio, possente fortilizio dominava il porto. Dentro, i suoi moli che sporgevano sul mare era alla fonda una fregata con le bocche da fuoco. Rogerio ne contò 12 su un fianco, dunque dovevano esserne almeno il doppio puntate sulla città. Oltre quelle difese si scorgeva un abitato incantevole, case per lo più in muratura, facciate variopinte, giardini e balconi. Si capiva perché Campeche avesse attratto generazioni di pirati, da Rock Brasileiro a Lewis Scott fino a Lorenzio e le sue prime scorribande. E memore di essere un bocconcino così ambito, la città si stava chiudendo entro mura invalicabili, ma i lavori erano in corso e tratti interi dei suburbi rimanevano privi di protezione. La giornata era il 9 luglio del 1685 e prometteva tempo eccellente, sole che scottava, eppure nessuna umidità, nemmeno tra i boschi. Il profumo dell'oceano aleggiava ovunque. De Grammont scese da cavallo con relativa disinvoltura e altre allontanò chi intendeva sorreggerlo. «I tetti!» disse. «Guardateli, sono piatti! Lì saliremo e passeremo da una casa all'altra. Gli spagnoli si aspettano attacchi dal basso e resteranno delusi!» «È la fregata?» ho detto. «Adeszon?» «Ah, quanto a quella!» iniziò De Grammont. Non fece in tempo a completare la frase, il veliero spagnolo che presidiava il porto scoppiò sotto i suoi occhi. Il fragore chiuse i timpani degli spettatori. Per primo fu il castello di poppa a volare in pezzi ed abbattere l'albero di trinchetto. Il resto del vascello prese fuoco, arsero le vele, l'equipaggio si gettò in mare. Galleggiò per qualche minuto la prua che aveva sul mascone il nome della nave Nuestra Signora della Soledad. E poi la fregata se ne abissò generando mulinelli e lasciando scie di relitti. «Lo hanno fatto apposta!» disse Macari. «Volevano bloccare il porto o impedire che un veliero di quella stazza fosse catturato da noi!» «E che ce ne importa!» replicò De Grammont. «Artiglieria nemica in meno, resta il forte! Sui tetti! Volentieri tutti quanti! E cannoni puntati sulla rocca!» E lanciò una bestemmia irripetibile. «Avete sentito?» urlò Macari. «Gli uomini sopra le case! Merda d'un demonio!» Tradusse la blasfemia del suo capitano in qualcosa di accettabile. I pirati, sotto l'impulso dei loro capitani, obbedirono da un momento all'altro. Scale e rampini furono usati per scalare i tetti. Dal forte si cannoneggiava. Gli spagnoli nelle strade erano invece bersaglio facile, cadevano come birilli. «Uccidi! Uccidi la filibusta! Uccidi!» gridò Macari mentre saltava da un tetto all'altro. Si trovò al fianco Lorenzio, la sciabola sguainata nella sinistra, una pistola nella destra. Balzando fra le case, De Graff era atterrato in posa da avvoltoio. «Nessuno spagnolo ha diritto a vivere, porco diavolo!» urlò. «Puntate alle donne e ai bambini! Quella razza non va perpetuata!» E per dare l'esempio scaricò una pistola sui passanti, la gettò e sparò con una seconda. A dire il vero, tra la gente in fuga gli spagnoli erano pochissimi. Si trattava soprattutto di schiavi lasciati a presidiare le case mentre i padroni scappavano nelle foreste dirette a Merida. Rogerio era assetato di sangue come i compagni, ma non si lasciò sviare dal vero problema, il forte. I cannonieri che presidiavano Crocicchi cadevano come selvaggina sotto le palle provenienti dai tetti, ma la rocca, il fuerte del Bonete, pareva inattaccabile. Vomitava fuoco e grumi di mitraglia avvolto dal fumo. Non si sapeva quanti fossero i suoi difensori e ogni bordata seminava la strage tra i pirati appostati sui tetti. De Grammont, agile, come se il combattimento lo avesse ringiovanito, raggiunse Lorenzio. «Così non ce la possiamo fare, troppe perdite. Tra breve gli uomini cominceranno a scoraggiarsi. Quasi tutte le postazioni e le strade sono annientate. Ammiraglio, merito dei bucanieri!» E in effetti gli uomini ricoperti di pelle insanguinate stavano svolgendo come al solito un lavoro egregio. Avevano montato i loro tre piedi in cima ai tetti, sui terrazzi e tra i ponticelli che univano le abitazioni in pietra. Sparare era sì laborioso. Molti dei loro fucili erano ancora a miccia, però ad ogni palla raggiungeva il bersaglio. Le batterie di cannoni non proteggevano più Campeche. Accanto ai morti, gli spagnoli feriti urlavano in pozze di sangue, talora simili a minuscoli laghetti. I mutilati gravi supplicavano che qualcuno andasse a finirli. Le scene consuete di ogni guerra. I canaletti della città trasportavano acqua macchiata di rosso e lembi di carne. La scena suggerì al gesuita Rogerio che era tempo di attuare il piano meditato da tanti giorni. Aveva visto Le Bona aggirarsi, la daga in mano, nella stradina sotto casa su cui lui si trovava. Discese dal tetto e gli si accostò. Fra la caligine dei colpi mostrò il braccio destro. «Tagliamelo!» gli disse. L'anziano nostromo del Neptune lo guardò con stupore, per quanto non eccessivo. «Ma tu sei pazzo, tu es loco!» gli disse. «No, non lo sono. Tu sai perché lo faccio», rispose Ruggero. «Ma non servirebbe a nulla! La filibusta ha le sue regole, non è vero? Io le farò valere. Ma perché non ti rivolgi a un altro?» «Perché sono cose che può fare solo un amico, un compagno. Dopo mi cauterizzerai e fascerai la ferita.» Le Bon sudava, ma non per il caldo. «Meglio il braccio sinistro, allora quello destro è utile.» «Voglio il destro, la ricompensa è maggiore.» Tese il braccio e chiuse gli occhi. I pochi secondi di attesa parvero durare anni. Infine il colpo, e subito dopo il dolore lancinante, insopportabile. Rogerio, prima di svenire, ebbe il tempo di vedere il suo braccio destro contrarsi al suolo presso di lui. Riprese i sensi in preda a un male ancora più terribile, capace di condurre un uomo alla follia. Ex che Manning gli stava cauterizzando la ferita con un'accetta rovente sotto una specie di tenda. Rogerio urlò e svenne nuovamente. Accanto al chirurgo c'era il carpentiere delle Ardi che aveva fornito lo strumento. Dietro i due stavano braccia incrociate, Le Bon e Le Vert, entrambe pensosi. Rogerio si risvegliò adagiato con tutti gli abiti addosso sulle coperte di un letto regolare, in una casupola dalle pareti spoglie. Dove era stato una volta il suo braccio a destro, adesso esistevano solo fitte dolorosissime. Il moncherino, benché fasciato, sanguinava ancora e tingeva le bende di rosso. Dalla finestra aperta giungevano scoppi, spari di moschetto, cannonate fragorose. Chino su di lui aveva Le Vert con una tazza di brodo in mano. «Bevi questo», disse il timoniere, «ti farà bene, ma si combatte ancora», chiese Rogerio, cercando senza successo di trascurare i dolori che gli attanagliavano la spalla destra. «Oh sì, è ormai da 2 giorni, hai dormito a lungo. Il forte seguita a resistere, lo bombardiano dall'alba al tramonto, ma non cede.» Il portoghese accostò le labbra alla tazza e inghiottì una sorsata di brodo. Scottava. «Dov'è Ex Camelling?» Da badare ad altri feriti. Alcuni sono mutilati in maniera davvero atroce. Lui cerca di ricucirli come può, un po' qui, un po' là. «E Le Bon?» «Ah, e lui ci ha raccontato ciò che ti è successo. È un atto di coraggio che i fratelli della costa ricorderanno con gratitudine. Uno contro molti, armato solo di daga, un braccio in cambio di tanti spagnoli spediti al creatore. Ciò ti sarà ricompensato, sebbene l'arto sia perduto per sempre. Ma in cielo c'è un Dio che il nostro capitano, vi credo, no, avrai denaro e schiavi a volontà.» «Schiavi a mia scelta.» «A tua scelta, è ovvio.» E allora Rogerio si rilassò, malgrado gli atroci spasmi al moncherino. La sua felicità era superiore al dolore. Quasi senza accorgersene, tornò ad assopirsi. Rogerio poté uscire all'aperto solo giorni dopo, quando il fuerte del Bonete era già conquistato e la città si trovava in balia dei pirati. Fu Macari a raccontargli come il presidio era caduto. «La terza notte gli spagnoli se ne sono andati, di loro spontanea volontà, senza alcun intervento da parte nostra. È vero che il cavaliere de Grammont aveva fatto sistemare alcuni pezzi d'artiglieria nella casa di fianco al fortilizio che serviva da prigione e da lì sparavano tutto il tempo. I nostri uomini tiravano alla cieca senza sapere chi avessero colpito e chi no. Sta di fatto che i difensori si sono presi paura e, approfittando del buio, se la sono squagliata. È rimasto sugli spalti un solo artigliere inglese che non voleva saperne di arrendersi. Un inglese? Eh sì, un inglese, ma al servizio della Spagna, un coraggioso. Il suo valore è stato premiato. Non soltanto De Grammont lo ha lasciato libero di allontanarsi con tutti i suoi beni, ma lo ha anche coperto di donne, argenterie, denaro, stoffe. Il nostro capitano sa riconoscere la gente di fegato. A proposito, come va col braccio? A Rogerio il moncherino seguitava a dolere terribilmente e solo razioni supplementari di rum gli permettevano di dormire qualche ora. Tuttavia fece un gesto noncurante. Mi è difficilissimo usare solo il braccio sinistro, per il resto va benino. Ebbè, non temete per la vostra carica, lo assicuro Macari. Di nostromi senza un braccio ne ho visti a bizzeffe la tortuga. Quanto ai lavori pesanti ci penserà Le Bon. E torno dunque su Neptune? No, è Le Bon che passerà sulle Ardì appena tornati alla Tortuga. I fratelli della costa possono cambiare di nave a patto che anticipino i soldi del loro vitto. Una legge che non vale nella marina ufficiale. Le strade di Campeche erano praticamente deserte. I pirati si erano sparsi nelle campagne circostanti alla ricerca degli abitanti che vi erano fuggiti. Si vedevano in giro rari schiavi, troppo anziani o troppo giovani e nessuna donna. Piccoli drappelli di avventurieri trascinavano fuori dagli alloggi, in gran parte dalla facciata decorosa e con finestre chiuse da griglie in ferro battuto, le suppellettili che potevano avere un qualche interesse commerciale. Poca roba, abiti, alcuni mobili, arredi religiosi. I ladri più fortunati reggevano armi e trascinavano per la briglia dei cavalli. La città pareva avara di ricchezze. Di tutto ciò però a Rogerio non importava nulla, aveva solo fretta di vedere colei per cui si era sacrificato. Le navi ormeggiate a Ciampotone entreranno in porto adesso che Campeche è nostra. Oh sì, rispose Macari. Lorenzillo, che ha assunto il governatorato del forte, ha già spedito degli uomini per condurre la flotta nella rada e farla ancorare. Lo stesso De Grammont è partito a cavallo in compagnia di Truan per portare qui le Ardi. La notizia non fece per nulla piacere a Rogerio. Aveva ormai forze sufficienti per abbandonare il letto, quindi si separò da Macari, discese al porto e sedette sul molo scrutando il mare. Alle sue spalle udì delle urla. Qualcuno degli spagnoli fuggiaschi doveva essere stato catturato. Gli si dava fastidio. On lui donne la gente, come dicevano i francesi con un rassicurante eufemismo. Ciò significava che veniva sottoposto alle torture più disumane. I capitani Vigneron, Focard, Pierrebotte, Adeszon, Retexard presiedevano ai supplizi. Rogerio toccò la manica vuota che aveva contenuto il suo braccio destro e, le lacrime agli occhi, emise un gemito sommesso. Sulla fortezza che lo sovrastava, nel calore cocente, un alito di brezza faceva sventolare la bandiera con i gigli, ma è a fianco la Jolie Rouge. Thank you. E questi erano Mark Instinct, il brano Destroyed, dopo la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Ora leggeremo l'ultima notizia di controinformazione e dopo l'ultimo paragrafo del libro di Valerio Evangelisti, Tortuga. L'ultima notizia di controinformazione va in Grecia, dove continuiamo ad aggiornare sul sito di Radiazione per quanto riguarda il processo ai compagni delle CCF. Leggiamo le varie udienze. Udienza 89. L'udienza è stata interrotta perché uno dei compagni è stato ricoverato per un'operazione prenotata e gli altri accusati non si sono presentati, ma hanno inviato un comunicato solidale a Savas Siros in merito alla sua richiesta di sospensione della pena. Lo ricordo, Savas Siros è il compagno del 17 novembre che praticamente dopo un permesso si è dato alla fuga. L'udienza 90 invece è continuata con la lettura di alcuni documenti da parte dei giudici. La 91 ha continuato uguale con la lettura. Invece la 92, in questa udienza sono stati letti documenti riguardo alle armi da fuoco trovate nei singoli arresti a Smirne e a Pireo. Questi prigionieri hanno ripetutamente rifiutato ogni associazione con la cospirazione delle cellule di fuoco. Comunque i giudici hanno insistito nell'accusarli di far parte dell'organizzazione, definendoli membri delle CCF, ma anche capi di questa cellula. L'udienza 93 invece viene completata con la lettura di centinaia di atti. L'udienza 94 inizia con l'esame di migliaia di foto delle prove trovate dall'agenzia antiterrorismo nei rifugi delle CCF, ma anche in altri casi dei familiari dei compagni. Tra le foto ce n'è una che mostra un'auto di proprietà di un agente di polizia portuale che fu espropriata dai compagni delle CCF a Volos. Uno dei compagni ha detto in questa foto, che dimostra la falsa targa del veicolo, la data è stata falsificata. Questo fatto è stato anche riconosciuto dai giudici mentre esaminavano le foto. Il compagno ha continuato chiarendo che la falsificazione della data non è legalmente importante per i compagni, dato che i compagni non riconoscono la legge o altre autorità, ma è importante per evidenziare questo fatto al fine di mostrare i metodi che vengono usati dalla polizia per i casi di alto interesse. Poi c'è l'udienza 95, dove si è continuato ad esaminare migliaia di foto. Durante l'esame di alcune foto che mostrano alcuni cappelli di agenti municipali e portuali che furono trovati in uno dei rifugi delle CCF, un compagno ha fatto una breve dichiarazione. Qualche giorno fa, in un altro processo per una rapina in banca presumibilmente fatta dalle CCF, dove è stato ucciso un cittadino eroe che ha cercato di fermare i rapinatori, l'unica aggravante a carico dell'accusato è stato un cappello presumibilmente caduto ad uno dei rapinatori durante lo scontro. Il compagno che è stato condannato a 25 anni di carcere e di cui abbiamo già letto qualche comunicato nella scorsa diretta d'azione. Il compagno ha voluto chiarire che con questa dichiarazione che gli oggetti mobili come un cappello possono essere trovati in posti dove i loro possibili proprietari non sono mai stati. Ha usato i cappelli degli agenti espropriati dagli compagni delle CCF e trovati in un rifugio dell'organizzazione come esempio. L'udienza 96, l'esame è continuato con l'esame delle foto. La 97, in questa udienza la questione su ciò che concerne la rivendicazione da parte dei compagni membri delle CCF e più in generale di cosa significa essere un membro delle CCF in termini legali. Due compagni delle CCF hanno risposto alle dichiarazioni assurde dalla Corte, dichiarando chiaramente che i membri delle CCF sono solo coloro che ne hanno rivendicato l'appartenenza e nessun altro. Olga Economido è intervenuta dicendo che in base alla documentazione legale Guidi e giudici hanno etichettato chiunque avesse relazioni di amicizia con i membri delle CCF come membro dell'organizzazione. In seguito un altro compagno ha parlato delle foto che sono circolate mentre era ricercato, ma che raffigurava un'altra persona irrilevante e ignota come se fosse lui. L'udienza 98, l'ultima, la procedura di esaminare le foto viene completata. E questo era per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il processo ai compagni della CCF in Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono D.A.M. con il brano Beat Conspiracy, e poi dopo si va a terminare con l'ultima lettura dell'ultimo paragrafo per oggi di Tortuga di Valerio Evangelisti. Things about battle that movies cannot teach you, and that is the true horrendous noise of battle. Bullets cracking, bombs landing, artillery shells exploding, people screaming. It's just a cacophony that's almost deafening. Bombs, we see the creep. Rogerio dos Campos tutto si aspettava salvo vedere la schiava che sognava ogni notte a prua delle ardi, perfettamente libera e agghindata come una dama. La pelle scura della donna faceva stridente contrasto col bianco delle trine della camicia, dal colletto alto della giacchetta, chiusa su un'ampia gonna plissettata di velluto verde. Sul capo aveva un cappello da caccia stretto sotto il mento con un nastro. Si appoggiava al mascone di tribordo con al suo fianco De Gramont, altrettanto elegante nel suo mantello nero, che pareva illustrarle in momenti di campeggio. La chiesa di San Román, il fuerte del Bonete conquistato, la chiesa di Guadalupe, il convento della Mejorada, lei era palese, si limitava a tacere. Maldito, mormorò tra sé Rogerio all'indirizzo di De Gramont. L'ha ghindata come una concubina, vuole farne la sua amante. Magari lei lo era già, tuttavia il portoghese non poteva saperlo e ciò lo rodeva. La sua definizione non era del tutto esatta. A differenza delle concubine di corte o delle case nobiliari, la schiava non calcava parrucche incipriate. Dal cappello la capigliatura nera e liscia le scendeva liberamente sulle spalle, mossa dal vento. Anche a distanza la sua bellezza abbacinava. Rogerio trasalì allorché la donna puntò su di lui i suoi grandi occhi. Pareva stupita e fu facile capire perché. Cercava un braccio che non c'era più. Il portoghese ricambiò lo sguardo nella speranza che per qualche miracolo la schiava capisse. Lo aveva fatto per lei, avrebbe voluto gridarglielo e non poteva. Avvertì una disperazione abissale impadronirsi di lui. Intanto sulle ardi gli argani cigolavano e l'ancora si tuffava in acqua secondo gli ordini gridati da Truan. Henri Duval incitava i gabbieri a legare i terzaruoli con i matafioni. Entrarono in porto anche il Neptune, il Mutin, il Nuestra Signora de Regla e le altre navi condotte da equipaggi ridotti ai minimi termini. Cercavano di evitare la fregata spagnola affondata nella rada di cui emergeva ancora la sommità dell'albero di Maestra. Quando la flotta della filibusta fu schierata, apparve evidente l'assoggettamento completo di campeggi. Partì qualche cannonata a salve in segno di giubilo. De Gramont, con ordini secchi trasmessi di legno e legno, fece cessare quei frivoli entusiasmi. Intanto le nari di Rogerio furono raggiunte da leggere volute di fumo. Alcune costruzioni della città bruciavano, non le più grandi di mattoni, piuttosto le capanne. È un ordine di Lorenzillo, spiegò il carpentiere Dixon, che aveva raggiunto il molo per fumare in pace la sua pipa. Sedette a caso accanto al portoghese. Gli spagnoli fuggitivi si sono dispersi nei villaggi attorno e qualche fortunato è forse riuscito ad arrivare a Merida. Restano gli schiavi, stiamo incendiando le loro baracche perché siano costretti a radunarsi al centro di Campeche. Pensano che le chiese siano la loro salvezza. Appena saranno in numero sufficiente li metteremo in catene e li trascineremo a bordo qui. Non si trovano beni commerciabili a parte le braccia. Rogerio non aveva occhi che per il Leardi che stava calando le scialuppe. Domandò, senza prestare molta attenzione alla risposta, «I magazzini sono vuoti». «Ah, sì, lo dicevo che sarebbe stato meglio fare vela su Veracruz». «Ho sentito urla di torturati, negri, indigeni, nient'altro. Si segue il sistema consueto, paglia infuocata, cacciata in bocca. Non pare però che sappiano dove gli spagnoli sono andati a nascondere i loro tesori. E dunque, finora nessun prigioniero illustre». «Oh, sì!» Dickinson sorrise. «Almeno uno, niente meno che il vice governatore Felipe de la Barrera y Villegas. In mancanza di denaro lui ci può assicurare un buon riscatto». Rogerio vide De Gramont che accostava su una barcaccia con la schiava seduta al fianco, quasi che fosse la sua sposa, ma poco dopo lo perse di vista. Il capitano aveva deciso di approdare più lontano verso il convento di San Francisco, situato a Levante. Forse aveva scelto di trascorrere la notte nell'edificio abbandonato dai frati, ma non fu possibile scambiare altri sguardi con la donna. Verso sera, Rogerio si diresse alle case circostanti il forte che Lorenzillo aveva fatto requisire e destinato agli equipaggi. Adesso tutti e 1300 i pirati erano in campece e nelle vie brillavano sciami di lanterne. I filibustieri, secondo il loro solito, cantavano a squarciagola, si spostavano in branchi, saccheggiavano le taverne abbandonate dagli osti. Alcuni sceglievano tra gli schiavi gli indigeni che seguitavano ad ammassarsi nella caglia trinchera della playa, sospinti dall'incendio delle loro bicocche, le donne più belle, e le trascinavano negli alloggi. Non erano mica molte, mancavano quelle bianche di pelle. Probabilmente i mozzi avrebbero fatto anche a terra le spese di quella carenza. Rogero ne vide 4 o 5 acquattati dietro alcuni barili e uno solo nascosto su un tetto. Augurò loro silenziosamente che la notte scendesse in fretta. Si sentiva la febbre, ma da quando aveva perso il braccio era un fenomeno ricorrente. Avvertiva anche una leggera nausea. Non aveva molta voglia di avvicinarsi a locande sventrate a bivacchi. Il suo umore era pessimo. Si mise invece in cerca del cuoco Auguste Lebrun, che aveva espletato così bene il suo incarico a bordo del Neptune, e lo trovò infatti affaccendato a cucinare il salmigondis in un pentolone. Pirati sconosciuti, la pipa in bocca e la scodella di ferro in mano, aspettavano che il miscuglio fosse ben cotto. Erano la compagnia ideale per il portoghese, che infatti sedette in mezzo a loro. Lebrun lo salutò. «Non sarà un piatto particolarmente saporito, gesuita», annunciò. «Ma per fortuna qualche indiano aveva delle vacche mezze morte di fame e di vecchiaia, altrimenti non ci sarebbe neanche carne!» «Gesuita!» chiese uno degli uomini che fumavano. «Ma guarda! Ero anch'io nella compagnia di Gesù prima che mi sospettassero di simpatie gianseniste e mi mettessero a remo su una galera. Ero al Collège de France, ci siamo per caso conosciuti?» «Ah, non credo, io stavo a Lisbona», rispose brusco Ruggero. Non guardò nemmeno l'interlocutore, d'altra parte, viste le condizioni di luce, non avrebbero potuto coglierne i tratti. «Ah, io mi chiamo Alain Saint-Martin. Ho l'impressione di avervi incontrato molti anni fa.» «È impossibile!» «Ah, la pappa è pronta!» annunciò Lebrun. «Venite avanti in ordine, le scodelle in mano!» Per Rogerio non fu facile tenere la scodella di ferro con la sinistra. La mano gli tremava, il moncherino del braccio destro gli causava fitte acute. Come Dio volle, ebbe la propria reazione, ma non riuscì a servirsi del largo cucchiaio né del coltello. Dovette sorbire rumorosamente ciò che poteva e strappare con i denti la carne dalle ossa. Il salmigondis, il piatto della filibusta, non era cattivo, malgrado la prevalenza di verdure e di fettine di pesce. Ciò che gli mancava erano i sapori del pepe, delle altre spezie e del vino rosso. «Che miseria di conquista!» disse un avventuriero che sedeva accanto a Rogerio su un tronco abbattuto di fronte al falò. «Niente denaro, merci trascurabili, pochi capi di bestiame, un po' di legname e qualche schiavo decrepito.» Rogerio inghiottì il boccone. «Ma voi di che nave siete?» domandò. «Ah, io sono del Nostro Signore del Regra, del capitano Pierre Bott, una delle più grandi.» Si trattava infatti di un brigantino a palo con una trentina di canoni e quasi 90 uomini di equipaggio. Quarto veliero in ordine di stazza dopo il Leardi, il Neptune e il Mutiny di Addison. «Con noi è imbarcato anche l'ex gesuita che vi ha parlato poco fa. Sono giorni che ripete, che a voi vi ha visto da qualche altra parte. Beh, si inganna, io non lo conosco, non voglio avere a che spartire con lui. Ah, come desiderate, ma guardate, guardate cosa arriva e ci ricompenserà del cibo mediocre. E aveva cominciato a passare di mano in mano una grossa bottiglia di rum chiusa in una gabbia di paglia intrecciata. Si sorbiva garganella. Quando giunse a Rogerio il contenuto era quasi di sgoccioli. Forse lo finirò, avvertì. Andateci sotto, avvertì l'uomo che aveva a fianco. Non vi preoccupate, qui a Campeche c'è poco o niente, ma una seconda bottiglia la si trova. A portarla fu Alain Saint Martin e fu chiaro a Rogerio che l'intenzione dell'ex Sodalis, Sodalis era guardarlo bene in faccia. Io sono convinto che ci siamo già incontrati, disse l'altro. Non siete mai stato al Collège de France o a quello di Clermont? No. Infastidito e irrequieto, Rogerio ingollò un'ultima sorsata di rum, passò la bottiglia ai vicini e si alzò. Levarsi in piedi gli costò un gemito. Camminò verso gli alloggi sequestrati da Lorenzio. Quella notte dormì in una stanza dove ronfavano su divani e letti altri quattro camerati storditi dall'ubriachezza. Era un'abitazione borghese rischiarata dagli incendi dell'esterno, che faceva intuire i lussi che si concedevano gli spagnoli del Nuovo Mondo. Tappezzerie, pedane, coperte di raso, mancavano sì i candelieri d'argento e i dipinti che nella loro fuga precipitosa verso i boschi i padroni di casa dovevano aver asportato. La mattina successiva centinaia di pirati, molti dei quali a cavallo, si ritrovarono a piedi della fortezza. Faceva già caldo, l'acqua dell'oceano doveva essere tiepida e il cielo azzurrissimo era solcato sopra i vascelli alla fonda da stormi di gabbiani. Il paesaggio ispirava una dolcezza contrastante con le scene di distruzione che ospitava. Il cavalier de Gramont apparve in sella, meno tetro del consueto. Teneva per il codino un prigioniero, costretto a correggergli il fianco. Il vice governatore della Barrera, stravolto, sudato, col soprabito alle falde lunghe e il colletto ricamato macchiati di sangue. Quando l'ammiraglio lo lasciò, cadde in ginocchio e sembrava piangere. Attorno a De Gramont, anche loro a cavallo, c'erano gli altri capitani: Adezun, Lorenzio, Bott, Godefroy, Texas, Grognier, Pennot. In abiti eleganti fino all'esagerazione, carichi di armi e di piume multicolori, rappresentavano da un lato uno spettacolo minaccioso, d'altro lato un'imitazione quasi parodistica dell'aristocrazia europea, parvenu alla ricerca di rendite e di un posto al sole, avrebbe detto un osservatore esterno. E invece il giudizio non sarebbe stato del tutto corretto. L'avidità di quei condottieri caricaturali non era motivata dal bisogno di una vita tranquilla e paciosa, al contrario, li muoveva una frenesia di stampo ferino, di predare, di incamerare beni. Non chiedevano ville, titoli e terreni, reclamavano vittime e averi da dilapidare il più in fretta possibile. Quando si fece silenzio, De Gramont disse: «Los españoles, spagnoli codardi, sono fuggiti e si sono nascosti nei villaggi, nelle foreste, nelle paludi. Stamattina andiamo a cercarli, ma prima di partire, però, voglio leggervi la lettera che ho scritto al governatore di Mérida, Don Juan Bruno Tellez de Guzmán. Gli sarebbe capitata in giornata». E De Gramont porse una mano verso Pennot, che gli passò una carta arrotolata, la spiegò e lesse: «Signor governatore, il cavaliere Michel François Nicolas De Gramont, generale ammiraglio, e il capitano Laurent de Graaf, che regge attualmente il Fuerte del Bonete, vi porgono i loro più rispettosi saluti. entrambi obbediscono sia al re di Francia Luigi XIV e ai suoi governatori in queste terre e in questi mari e alla volontà di Dio. Nel loro nome si sono impadroniti nella città di Campeche per dolorosa necessità di guerra. Si asterranno dal distruggerla se otterranno dalla signoria vostra, di cui è nota l'indole generosa, 400 capi di bestiame e 80.000 peso spagnoli in monete d'oro. Fanno presente che tengono il prigioniero il vice governatore Don Philippe de la Barrera e i Villegas, vari ufficiali e molti cittadini. Un atto di liberalità salverà loro la vita e impedirà ulteriori tragedie. Con grande rispetto i suddetti de Grammont, de Graff, eccetera, eccetera. Una salva di urrà! Accolse il comunicato. Ah, de Sezon interruppe allegrini con un ampio gesto della mano. Tutti gli uomini validi con noi nelle campagne, i mutilati sono esentati. Presti il loro servizio sulle navi e nel forte torneremo carichi d'oro. E ce ne sarà anche per loro. Gli urrà furono collettivi. Vennero sollevate daghe, scuri, pistole e fucili. I capitani girarono i cavalli, seguiti dai contingenti ordinati dei bucanieri e da quelli disordinati degli arawakos. I fratelli della costa si accordarono e si diressero alla periferia di Campeche con passo scandito dal suono dei tamburi. Rogerio, in quanto mutilato, vide i compagni scorrigli attorno e immergersi nei boschi. Aveva adesso molto ore da trascorrere prima del ritorno dell'armata e doveva impiegarle al meglio. È un'idea, ce l'aveva. A lunedì. Ecco, questa ultima lettura di Tortuga per oggi si conclude qua la diretta d'azione di lunedì 10 marzo 2014. Ricordiamo, il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo 14 con controinformazione musica. Invece per la lettura di Tortuga e la controinformazione se ne parlerà per lunedì 17 marzo. Ricordiamo gli indirizzi utili, la mail di redazione dove potete scrivere consigli, mail, comunicati, roba che volete mettere online, tipo giornali da scaricare gratuitamente sulla pagina download, e radiazione@twitch.org. Invece per il blog, dove potete seguire la controinformazione quotidianamente, è radiazione.org, dove potete scaricare ovviamente il materiale che ho appena detto e potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast. E dateci addosso un'altra volta, perché chi si offende è un fedente. Per la radio, chi l'ascolta sa come fare, altrimenti attraverso il lettore flash player che si trova sulla pagina del sito di redazione e sulla sidebar, pigiare play lunedì e venerdì dalle 17 in poi e ascoltare la diretta d'azione. Appuntamento a venerdì 14. Vi lascio con un brano di KMFDM Beach. Just Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Controinformazione, letture, informazioni, musica. Radio Azione, frequenze di azioni in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione.